Il rancore è uno dei nefasti sentimenti umani che si accomuna ad altri sentimenti negativi, quali per esempio l'odio, l'ira o la vendetta, ma possiede una particolarità. L'odio scaturisce anche quando riteniamo che qualcuno ci abbia fatto un grave torto, l'ira nasce anche quando riteniamo che qualcuno ci abbia fatto un'ingiustizia o con una parola o un fatto, mentre la vendetta si nutre e si compie anche perché pensiamo di rendere al prossimo ciò che noi riteniamo di aver ricevuto in negativo. Anche il rancore nasce e si nutre perché si ha la convinzione di reagire adeguatamente ad una ingiustizia subita. Ma spesso questo nefasto sentimento nasce quando oramai le cose vanno bene o si sono sistemate, mentre l'odio spesso svanisce quando i problemi che dividevano sono risolti e l'ira scompare quando vi è un chiarimento o la riconciliazione e la vendetta non ha più ragione di esistere quando si è ricevuto ciò che si ritiene giusto. Molte volte il rancore nasce proprio quando vi è il chiarimento o la riconciliazione, o proprio quando i problemi che dividevano sono risolti. Infatti, poiché il rancore è quel sentimento di sdegno o di risentimento profondo non manifestato apertamente e covato nel profondo dell'animo anche quando svaniscono i problemi che dividevano, quando vi è la riconciliazione e la vendetta non ha più ragione di esistere, non è detto che nel nostro cuore non si nutra ancora tale sentimento di sdegno. Mentre l'odio, l'ira e la vendetta, una volta soddisfatti, non hanno più ragione di esistere, sembra che il rancore sia un sentimento destinato a crescere nel cimitero della sfera affettiva. In definitiva, quando la burrasca dell'incomprensione, dell'odio e della vendetta è terminata, rimangono nell'aria del cielo sereno ancora le gocce di una dei più dannosi sentimenti dell'uomo, e cioè il risentimento. Così, mentre altri sentimenti negativi dell'uomo finiscono, il rancore soffia lentamente ancora sulla brace per far rivivere ciò che dovrebbe morire. Se è brutta una fiammata di odio, di ira e di vendetta, lo è molto di più il gesto di volere in tutti i modi tenere acceso un sentimento negativo. Se pronti a perdonare uno scatto di ira, di odio e di vendetta, ma si è meno propensi a perdonare chi vuole a tutti i costi tenere ancora in vita ciò che ormai non ha più ragione di esistere. Sono certamente da evitare tutti i sentimenti che distruggono i rapporti umani, ma il rancore è più che da evitare e da aborrire, ossia da disprezzare profondamente. Forse solo così si può evitare. Una ragione fondamentale per la quale si debba repellere questo sentimento è che esso è sempre negativo, mentre l'odio, l'ira e la vendetta hanno anche i loro aspetti positivi. In effetti, l'odio è un sentimento negativo quando è teso a compiere del male al prossimo, mentre chi ama il bene è costretto ad odiare il male, cioè provare verso ciò che è ingiusto una certa avversione. Così è pure dell'ira e della vendetta. L'ira e la vendetta non sono sempre sbagliate, perché nella parola di Cristo leggiamo che Dio si adira con i superbi e si vendica dei suoi nemici, ma non si è mai letto che Dio serba rancore verso qualcuno, e questo perché il rancore è sempre un sentimento negativo. Non esiste un rancore buono e un rancore cattivo, mentre esistono l'odio, l'ira e la vendetta giuste. Purtroppo, ancora una volta, noi siamo inclini a trattare molto più severamente l'odio, la vendetta e l'ira che il rancore. E così nella società, nella famiglia e nelle comunità cristiane esso attecchisce, nasce, porta frutto, distruggendo e inquinando ogni tipo di rapporto. E questo occorre sottolinearlo. Quando dopo una burrasca o una divisione le cose si mettono a posto. In effetti, una delle espressioni più comuni usate dopo una discussione accesa, dopo aver chiarito un malinteso o dopo aver riparato ad un torto, è «non serbarmi rancore». Con una simile espressione noi stiamo chiedendo al nostro interlocutore o alla parte avversa di non avere in futuro sentimenti rancidi. Termine questo che deriva dal latino e dal quale noi abbiamo coniato il termine rancore. Perché chiediamo questo alla persona con la quale abbiamo avuto una forte discussione che magari adesso è già risolta? Perché chiediamo al nostro avversario di non nutrire del rancore quando abbiamo riparato un torto? Perché siamo coscienti che il rancore nasce proprio quando tutto è finito, perché il rancore è il fratello maggiore della speranza, è l'ultimo sentimento negativo a morire. Si può dire che quando l'odio, l'ira o la vendetta sono passati tutto ritorna come prima, ma finché rimane nel nostro cuore anche il più piccolo barlume di acidità e di asprezza possiamo essere certi che noi non siamo in regola con il nostro prossimo, perché prima o poi il seme del rancore attecchisce e porta il suo frutto velenoso. Poiché la parola di Dio si riferisce a tutti i sentimenti negativi dell'uomo, non poteva mancare in essa la descrizione di un episodio nel quale poteva essere il rancore, un episodio nel quale viene messo in evidenza come esso è ancora vivo e vegeto quando tutti gli altri sentimenti negativi. L'episodio descritto è riferito a Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Giuseppe, per invidia, viene venduto dai fratelli ad una carovana di passaggio, ma le circostanze fanno sì che egli diventi viceré d'Egitto, e in quella posizione salva tutta la sua famiglia, facendola trasferire in Egitto. Giacobbe muore, e per mantenere un giuramento Giuseppe seppellisce suo padre nella terra promessa. Il seguito del racconto lo troviamo nel libro della Genesi al capitolo 50. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto». Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine dicendo: così direte a Giuseppe: De, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. De, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Genesi 50.1.4.17. Ancora una volta vediamo la tipica caratteristica del rancore. Il torto che Giuseppe ricevette dai fratelli di essere venduto come un qualsiasi schiavo non era piccolo, ma l'Eterno volle trasformare il male in bene, in modo che tutto si risolvesse nel migliore dei modi. Giuseppe era ricco e potente. I fratelli stavano benissimo in una terra adatta a loro. Molti anni erano trascorsi e i torti erano ormai stati abbondantemente sostituiti con la serenità e felicità. Ma vi era all'orizzonte ancora l'ultimo pericolo del sentimento negativo del rancore e i fratelli si guardarono molto bene che questo non avvenisse e per questo mandarono un messaggero di pace. Anche migliaia di anni fa gli uomini conoscevano il terribile sentimento di sdegno e di risentimento rappresentato dal rancore, e per questo si preoccupavano che non ci fosse anche quando tutto era a posto. Il rancore non è un nemico che ti affronta a viso aperto come l'odio, l'ira e la vendetta, ma è subdolo e ti prende, proprio quando pensi di averlo sconfitto. Se è possibile fare un confronto con le malattie, il rancore non è una bella e forte febbre che ti costringe a stare a letto. Ma è come il diabete, te ne accorgi quando ti affligge ormai da molto tempo. Proprio perché il rancore è uno dei sentimenti più nefasti, l'Eterno lo elenca nei suoi comandamenti. Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Levitico 19.1.7.18. L'ordine di amare il prossimo è preceduto da altri tre comandamenti, e cioè quello di non odiare il prossimo, di non fare vendetta e di non serbargli rancore, e solo in seguito si potrà amare chi ci sta accanto. Questa sequenza di atteggiamenti negativi riflettono niente meno la quotidianità della vita umana. Prendiamo l'esempio del matrimonio. Due coniugi hanno poca intesa, l'odio, cioè la mancanza di amore meno, e la vendetta espressa nella ripicca, sono all'ordine del giorno, vivendo il loro matrimonio con continue tensioni su tutti i fronti, sia caratteriali, sia sessuali. Passano molti anni e quello che non fa Dio lo fa il tempo. I coniugi imparano a capirsi, trovano armonia nelle espressioni caratteriali, e anche nel campo sessuale, giacché, dopo tanto tempo, il loro bisogno si è assopito. Notevolmente. Tutto potrebbe essere risolto, tutto potrebbe andare nei migliori dei modi, Ora che non ci sono più tensioni causate dalla mancanza d'intesa e da problemi nella sfera del sesso, ma ecco che lentamente nasce nei loro cuori la radice del rancore. Il marito inizia a covare un certo sdegno e risentimento nei confronti della moglie perché questa non le ha dato ciò che lui si aspettava moralmente e sessualmente, e la moglie ha forti risentimenti perché il marito non le ha permesso di realizzarsi come desiderava e non l'ha amata secondo i suoi canoni. Il rancore è quindi il sentimento negativo che nasce in una situazione positiva ed è causato dalla convinzione di non aver ricevuto ciò che si bramava. Il rancore non gode della positività del momento presente, non nutre speranze gioiose del futuro, ma guarda al passato in modo nostalgico. Così, anziché essere riconoscenti e godere il godibile, il rancore costringe a soffrire di sete davanti al fiume immenso di cose belle. Forse il potere fatale del rancore consiste proprio nel fatto di avvalersi di alcune verità e di una certa fondatezza dei sentimenti negativi provati riguardo a certe cose o situazioni, ma è proprio in questo momento che deve subentrare la forza del vero amore. Il vero amore guarda in faccia la realtà come Dio ha guardato in faccia la realtà che l'uomo è nient'altro che un miserabile. E proprio perché l'uomo è un miserabile, Dio non ha provato rancore ma un sentimento di compassione. Dopo queste riflessioni sembra che il rancore sia uno dei sentimenti meno degni di una creatura umana e intelligente fatta d'immagine di Dio, perché mentre l'odio, l'ira e la vendetta trovano anche la sua ragion d'essere, il rancore si rifà ad un passato che non ha nessun potere sul presente. E niente è più stupido che rovinare le gioie e il successo del presente con qualcosa di inesistente. Viene persino il dubbio che il rancore sia un'invenzione del diavolo. Ottobre 2006. Ellero.